Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. E buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati con un'altra puntata di Absolute Beginners, il mercoledì della musica emergente. Ciao Chiara. Ciao Eleonora, buon pomeriggio a tutti. E allora, come ogni settimana, torniamo a proporvi le nostre interviste dopo la nostra settimana di scouting fra artisti emergenti. Abbiamo scelto per voi due nuove proposte e ne approfittiamo. Questa settimana vogliamo iniziare subito con un appello, giusto? Sì, esatto. Noi abbiamo una pagina Facebook che è Absolute Beginners RCF e aspettiamo tutti i vostri consigli. Se siete degli appassionati di musica emergente e se siete dei musicisti, potreste proprio proporvi voi. Contattateci, aiutateci in questa durissima fatica settimanale di trovare nuove buone proposte per voi. E in attesa di poter ascoltare qualcosa di vostro o qualcosa da voi segnalato, continuiamo con le nostre proposte. Questa settimana ci andiamo ad ascoltare? Questa settimana partiamo con i New and the Thumbs Up e Alessandra ha intervistato per noi Filippo Infante, che ci presenta l'album Warriors. Siamo poi passati invece agli Orpheus Dreams e abbiamo chiacchierato con Domenico Urso, che ci parla del nuovo EP You. E sono queste le nostre interviste di questa settimana. Iniziamo allora con la musica andandoci ad ascoltare il primo gruppo New and the Thumbs Up con Ghost. Close your eyes. What do you see? She's gone, you should feel her all around you. When your life is going down, is a strain in steering you apart. Is this love measuring the pain? But we got a lot of things to say. Falling fast, falling free, getting wrong again. When your light is out, when you hit the ground. E abbiamo appena ascoltato Ghost dei Nu and the Thumbs Up e abbiamo qui al telefono con noi Filippo Infante in arte nu. Ciao Filippo. Ciao, grazie per questa intervista. Allora, questo è il tuo secondo album pubblicato insieme alla band The Thumbs Up. So che tu hai avuto altre esperienze però nel mondo della musica e volevo chiederti di parlarci un po' di questo tuo percorso, soprattutto della nascita di questo tuo progetto musicale che vede al tuo fianco anche Glauco Ricoveri e Giacomo Barbacci. Il discorso sì, è lungo, ma si può riassumere in una specie di carriera musicale che dal rock all'hard rock con un mio vecchio gruppo precedente mi ha portato poi a sondare un po' di più suoni di rock indipendente quando feci uscire il mio primo disco Simples, che era però a nome Nu, fino ad arrivare a trovare un po' un sound più elettronico accompagnato proprio da Glauco e Giacomo, il primo alla batteria e il secondo al basso. Questo sound che abbiamo sperimentato con Warriors, cioè che è uscito lo scorso ottobre, è il sound per noi in questo momento più congeniale. Mi piace moltissimo sperimentare con l'elettronica e una strumentazione però anche fisica, reale, come appunto un basso, una batteria. E come hai appena anticipato tu, a ottobre scorso è uscito l'album, 10 tracce molto interessanti, con una potente sessione ritmica e la totale assenza di strumenti. Mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa su questo lavoro. Sì, noi abbiamo deciso con questo disco di provare a fare un esperimento, ovvero di eliminare la chitarra, che non voleva essere un gesto in qualche modo razzista nei confronti dei chitarristi o della chitarra in sé. Semplicemente perché la chitarra, bene o male, è lo strumento che ci ha sempre accompagnati nei nostri progetti personali e abbiamo deciso di sbarazzarcene per fare una prova, vedere come si può fare pop in chiave più sintetica e, come hai detto bene te, ritmica tra batteria e basso. E noi poco fa abbiamo ascoltato Ghost. Voi avete girato anche un video per questo singolo che parla chiaramente di una storia d'amore. Ho letto con un richiamo al mito di Apollo e Daphne. Il video, per chi volesse vederlo, è disponibile su YouTube. Ci spieghi un po' i significati nascosti di questo singolo molto intimo? Sì, questo hai detto bene, è forse il pezzo più intimo di Warriors, e infatti il testo apparteneva a una vecchia canzone che doveva finire in Circles e che poi è rimasta fuori, e lo dico perché Circles, chi lo ascolterà, è un disco molto profondo, molto intimista, molto cupo anche per certe cose. Sostanzialmente questi fantasmi sarebbero i fantasmi che ci portiamo dietro, legati soprattutto a storie d'amore finite, passate, che lasciano un segno, ma che in qualche modo rimangono un po' impresse dentro di noi. Questa canzone esorcizza proprio questa paura del dolore, che secondo me a volte in questa società siamo un po' portati a rifuggire dal provare sofferenza, dolore. In realtà sono tutti sentimenti comunque importanti, perché ti cambiano in qualche modo, ti fanno crescere. Bene Filippo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, ti invito a segnalare i modi attraverso cui è possibile seguire voi e la vostra musica. Sì, New End Thumbs Up ci trovate su Facebook, ci trovate penso su tutti i social possibili, perché ci siamo veramente intreppati su questa storia dei social. Comunque il nostro disco per fortuna è ascoltabile anche su Spotify, Apple Store, Amazon, le varie piattaforme, Digital Store, insomma ascoltateci, seguiteci, noi siamo molto contenti. Bene, grazie ancora Filippo, noi adesso andiamo ad ascoltarci il secondo singolo che ha dato il titolo all'album, questa è Warriors. Thank you. E siamo qui in linea con Domenico Urso di Orpheus Dream. Benvenuto da Absolute Beginners. Ciao Paola e grazie per avermi invitato. Bene Domenico, parliamo di questo tuo progetto Orpheus Dreams. Innanzitutto volevo chiederti un po' come mai la scelta di questo nome e poi raccontaci un po' come nasce questo progetto musicale, che nasce, se non sbaglio, nel 2014, giusto? Sì, nel 2014 avevo un po' di pezzi strumentali su cui volevo aggiungere delle voci. Per fortuna, durante un viaggio in Lussemburgo, ho abitato lì per un po' di tempo, ho incontrato un ragazzo che mi ha consigliato una cantante. Da lì è partito poi tutto il progetto. Ci siamo visti qualche volta, abbiamo registrato le voci e con lei anche abbiamo deciso il nome del progetto, Orpheus Dream, che, come capirai, rimanda un po' al personaggio della mitologia greca, ecco, certo, a Orfeo. La tua musica un po', diciamo, si muove tra il trip hop e la dub, ma da dove nasce la passione per questo genere musicale? Io suonavo a Bologna già dubstep con una crew di ragazzi, Solid Crew, suonavamo spesso all'Inca. Da là, da questa passione per questa musica, ascoltavo già prima tantissima musica, ma da questa passione per questa musica ho iniziato a produrre, mi sono venuti fuori sti pezzi. Non ho cercato proprio questo sound, era il sound che mi veniva dagli ascolti che facevo, i Massive Attack negli anni 90, poi tutta la scena di Bristol, eccetera eccetera. È stato un percorso, diciamo, naturale. Sì, ecco. E appunto, a 3 anni di distanza dall'EP d'esordio Unbound, il 3 febbraio uscirà il secondo EP dal titolo You per Irma Records. Come sì. Sono nati questi pezzi e come è stato l'incontro con questa etichetta? Allora, i pezzi sono nati, diciamo, in Lussemburgo e sono stati finiti qua in Italia, perché la scorsa estate ho invitato Chantal per un periodo qui a Bologna e abbiamo registrato qui a casa mia, nel mio studio, i pezzi che comunque c'erano già da un annetto. Era giusto il fatto di non riuscire a beccarci che ci aveva bloccato per un po'. Finalmente la scorsa estate siamo riusciti a registrare i pezzi ed è nato questo nuovo album, You. Secondo me un po' più maturo del primo, ecco, si rifaceva tantissimo al dub. Qui c'è qualcosa, secondo me, di più personale. E appunto, tu, oltre a essere musicista, sei anche produttore, appunto, come dicevi prima, anche nel mondo della musica, diciamo, ci sei da un bel po' di tempo. Ma qual è la dimensione che preferisci? Una versione, diciamo, da musicista live o in studio? Guarda, una bellissima domanda, perché è una cosa a cui penso spesso. A me piace stare in studio, è la cosa che amo, stare davanti ai monitor, ascoltare musica, fare della mia musica, giocare con le macchine. Ho comprato un po' di synth negli ultimi tempi, quindi mi diverto, ecco, passo i miei pomeriggi così. Bene Domenico, allora grazie per essere stato qui con The Absolute Beginners. Però prima di salutarti e andarci ad ascoltare l'altro brano dal tuo EP My Thrill, volevo chiederti un po' i contatti per rimanere appunto aggiornati sui prossimi passi, diciamo, del tuo progetto e dei prossimi live. Ci trovate su Facebook come Orpheus Dreams, su Bandcamp, su SoundCloud. Abbiamo cercato di usare Orpheus Dreams come nick per tutti i profili, così è più facile trovarci. Comunque basta veramente una semplice ricerca su Google per trovare tutti i nostri siti. Bene Domenico, grazie ancora e noi grazie ora... Grazie a te Paola, veramente. Buona serata e buona continuazione. E questa è My Thrill. To come to constantly burning, burning for action. Abbiamo ascoltato My Thrill di Orpheus Dreams e siamo giunti quasi alla fine della puntata con il nostro ex Absolute Beginners. Chi abbiamo scelto oggi, Eleonora? Esatto, è arrivato il momento poco prima dei saluti di andare a riscoprire un vecchio album d'esordio. Questa settimana andiamo a riprendere un album del 2006 che personalmente mi piace tantissimo. Stiamo parlando dell'omonimo album dei Beach House, un duo di Baltimora formato da Victoria Legrand e Alex Skelly. Questi due ragazzi iniziano appunto nel 2004 con questo progetto, inizialmente dai suoni molto vintage per poi approdare a il dream pop come li conosciamo oggi, ebbero subito una certa notorietà nel web e iniziarono a suonare come band di supporto ad artisti anche abbastanza importanti come Cat Power, Fleet Foxes e Grizzly Bear. Noi da Beach House ci ascoltiamo Master of None. Absolute Beginners termina qui, ma l'appuntamento con la musica emergente è sempre il mercoledì alle 14.30. E vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, Absolute Beginners RCF, e vi rinnoviamo l'invito, musicisti emergenti in ascolto o ascoltatori che avete scovato qualche musicista particolarmente interessante, segnalatecelo, noi saremo molto contenti di ascoltarvi o di seguire le vostre segnalazioni, ma adesso vi lasciamo con Beach House, Master of None.